Radio 24 Reportage. Viaggio nella nuova Gomorra, in anteprima sul set della serie, di Marta Cagnola. Oggi stiamo girando delle scene del primissimo episodio, quindi sarebbe il pilot, cioè l'episodio 1. E questo qua è il deposito dove arriva, diciamo, il fumo, quindi l'hashish, sarebbe di proprietà di Conte, che è diciamo l'avversario del nostro clan. Questo qui è il luogo dove vengono smistati e è lavorato il fumo per poi essere venduto in tutte le piazze. E quindi oggi qui giremo una scena che è un assalto a questo deposito. E azione! E stop! Stop! È passata mezzanotte a San Vitaliano, provincia di Napoli. Stefano Sollima è il coordinatore del progetto di Gomorra, la serie. Stefano ci porta sul set dell'evento TV più atteso della prossima stagione di Sky. 3 anni di scrittura, 30 settimane di riprese, 12 episodi, 3 registi. Dietro la macchina da presa, insieme a Francesca Comencini e Claudio Cupellini, proprio lui, Stefano Sollima. Dovendo raccontare un romanzo complesso come quello di Saviano, abbiamo cercato una formula narrativa che ci consentisse di raccontare noi di nuovo le organizzazioni criminali, in questo caso una famiglia, cercando di raccontarne tutti gli aspetti. E questo ha portato a una struttura un po' complessa, diciamo, che sono 12 episodi in cui noi raccontiamo la storia di una famiglia, quindi di un clan. Quindi è una storia abbastanza classica e orizzontale, solo che in ogni episodio verrà raccontato uno degli aspetti della vita, tra virgolette, del clan e uno dei protagonisti. Quindi questo porterà ad avere, come dire, una continua variazione all'interno degli episodi del fuoco, quindi del racconto. Un episodio sarà raccontato da parte, non so, dal punto di vista dei killer, e l'altro, il secondo invece, è raccontato dal boss, il terzo dalla moglie del boss e così via. Amore, sei capace? Ti? Amore, che stai a fare? Dritto, accussi curata. Sei pronto? Vai, va. Stefano Bises, come avete lavorato al soggetto e alla sceneggiatura di Gomorra la serie? Bisognava prendere le mosse da una realtà composita e complessa. Sì, erano due punti di riferimento monumentali dai quali era fondamentale allontanarsi, perché altrimenti saremmo stati schiacciati dal confronto. Dalla nostra parte ha giocato il tempo, il fatto che da Gomorra al libro e poi film sono passati molti anni e la realtà è molto cambiata, e noi abbiamo raccontato un'attualizzazione in qualche modo di Gomorra. Impossibile non chiedere come avete interagito con Roberto Saviano. Ma dal primo momento, io personalmente sono 3 anni che lavoro a questo progetto e abbiamo cercato una serie di strade che prima di arrivare a questa, e con Roberto siamo partiti prima da sostanzialmente sceneggiare il libro in maniera diversa dal film, poi fare 6 storie separate, 6 film diversi, fino ad arrivare al modello che abbiamo in qualche modo scelto oggi, pochi mesi fa peraltro, e ci siamo confrontati con Roberto continuamente. L'ultimo episodio è 2 mesi fa, dovevo scrivere un ruolo della mafia russa nel sud della Spagna e avevo bisogno di Roberto per capire che non mettessimo in scena un cliché ma delle storie reali, cioè è stato continuo il lavoro con lui. Visto che ci sono state moltissime polemiche preventive, le polemiche preventive sono quanto di più deleterio ci possa essere per un'opera. Una frase che hai detto durante la presentazione: non è necessario mitizzare il male perché il racconto del male sia convincente. Ma è quello che io ho visto da questo lavoro, insomma, noi abbiamo questo è un racconto di vittime. Che poi loro siano consapevoli o meno di esserlo, per certi versi è secondario. Chi guarda lo capisce in maniera chiarissima, insomma, qui non, eroi è molto difficile rintracciarne. E però la vicenda umana di chi attraversa il male è una vicenda interessante da raccontare, perché sono cadute, risalite, quasi sempre finisce in una caduta, in un modo o nell'altro, o sentimentale se non proprio di vita, biologica in qualche modo. Io ho l'impressione che in questo racconto noi questo rischio di mitizzazione l'abbiamo proprio evitato, capendo che raccontavamo della storia di gente che era condannata, sia chi fa la scelta criminale che in qualche modo la subisce, e chi si salva sono quelli che in qualche modo si oppongono, che pure sono raccontati. Ma prima si ha capito che deve stare al posto suo. Tu non devi essere paura. Hai capito? Papà tuo ha da passare la mano. Gennaro. Finalmente se capisse chi è che tu manda. Finalmente sarebbe chiaro che sei tuo capo. Mi stanno addosso, compie. Sono giù da colpo sicuro. A casa qualcuno che ha parlato. Mo è tardi. Gaetano Di Vaio, un uomo che ha una storia, una carriera molto particolare, che si è trovato a svolgere un ruolo quasi da mediatore. Cos'è successo, come è avvenuto questo processo? È avvenuto perché inizialmente c'è stata una sorta quasi di rivolta, ribellione di alcuni abitanti della città, di Scampia, associazioni, istituzioni, perché giustamente la ferita della camorra qui la viviamo tutti sulla nostra pelle in maniera forte, però secondo me è come se questa rabbia la si stava indirizzando verso un obiettivo sbagliato. Non poteva essere una fiction, tra l'altro, come prima ho anche detto, scritta in maniera onesta e girata in maniera onesta. Non poteva essere quello il nostro problema, anzi quello per noi può essere un ulteriore strumento per gridare forte, come dire, che la città è ancora sotto le mani e il controllo della malavita organizzata. E quindi, come dire, giustamente io capisco la gente, il punto era parlare con la gente. Infatti quando abbiamo incontrato, parlato, io sono stato coinvolto dopo l'esploit, diciamo, delle polemiche, quindi ho fatto un lavoro di ricucitura sostanzialmente, perché avevo avuto la fortuna di leggere le 12 episodi. E lì mi sono messo un po' a parlare con le persone, ho cercato di far capire, invece pigliamoci questa, viviamola come un'opportunità attraverso questa cosa, anche perché Sky poi parlava di fare delle puntate dopo la fiction, delle inchieste, delle dirette in televisione, con la possibilità di invitare ospiti, dibattiti. Cioè, secondo me può essere un megafono per noi questa cosa, pure perché dopo il primo Gomorra tutto è tornato come prima, la faida è riscoppiata, siamo forse anche peggio del 2004. Allora mi sembrava veramente assurdo, pur comprendendone le ragioni, mi sembrava assurdo perdere invece l'opportunità. Comunque sono 13 milioni di euro spesi a Napoli e i giovani possono avere dei rapporti, delle relazioni, delle opportunità da sfruttare. Ma da questo Gomorra io credo che usciranno anche dei bravi attori, dei bravi organizzatori, dei bravi ragazzi di set, secondo il mio punto di vista. Uno dei nostri muore subito, colpito al volto, proprio quello che guida. Poi loro scenderanno, la vedrete adesso perché la fanno, scendono, c'è un conflitto a fuoco qui e poi entrano. Poi dentro si sviluppa l'inferno. Prova, pronti. Attenzione, una prova. Silenzio. Silenzio, grazie. Azione. Marco D'Amore è protagonista di Gomorra, la serie. Cosa prova un attore a interpretare un killer come il tuo Ciro Di Marzio? Si genera un cortocircuito tra la gioia di partecipare a un progetto così importante, alla possibilità di misurarsi con un personaggio tridimensionale che copre un arco ampissimo, quasi tutta la serie, e il conflitto personale di chi vive certe situazioni con grandissima sofferenza, cercando da cittadino di partecipare in un certo modo, E quindi nel momento in cui ci si ritrova per gioco nella finzione della fiction a dover sparare a qualcuno piuttosto che a dover infliggere una pena violenta, c'è l'attore e il personaggio che si divertono e sono dentro quella situazione, c'è il ragazzo che pensa, ecco, qui in questo stesso posto magari la stessa scena è avvenuta davvero, ahimè. Potrebbe essere uno Iago, perché è uno che sta sempre in mezzo a dei fuochi diversi e che rispetto a quello che succede cambia il proprio modo di agire, il proprio modo di rapportarsi. Non solo, la decisione presa di arrivare a un certo punto genera una serie di avvenimenti violenti che gli sfuggono dalle mani, ed è quello che succede a Ciro. È quello che succede a Ciro, è quello che purtroppo spesso succede nella realtà. Purtroppo sì. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.